non leggere niente, chiuditi a riccio. Ma se proprio non ce la fai, ti consiglio I Zoo, Pascal de Duve, edizioni del Cardo. I giardini del Luxembourg si allungavano ridenti sotto i raggi di un sole generoso. Lì da sempre, o forse chissà, caduto delicatamente dal cielo come una grossa goccia tiepida, preludio del temporale, vestito tutto di nero, diritto su una sedia, aveva la maestà di un obelisco seduto. Spaventapasseri alla rovescia. È così che il narratore descrive l'incontro con questo personaggio strano che sembra uscito da un quadro di Magritte. È un uomo senza storia, senza memoria, senza età, senza corpo, ma davvero pesa 7 kg e anche senza nome, almeno fino a quando non viene riconosciuto da una turista russa che lo chiama I Zoo Breteni Kudoginika, I Zoo. Per semplicità. I Zoo studierà rapidamente e apprenderà tutto in modo fulmineo e come un entomologo alieno va alla scoperta di Parigi, osserva le persone, le scruta, le incontra, attraversa le religioni, le ideologie in poche settimane. Il finale è davvero sorprendente, così come il libro è esilarante, per questo è già questo è un motivo per leggerlo. È stato un grande successo in Francia, questo è stato l'esordio per questo scrittore Pascal de Duve, belga, a 26 anni, nel 1990, e in Italia è arrivato soltanto nel 2006 da Edizioni del Cardo. È un libro introvabile, a meno che non si vada per esempio alla biblioteca Mameli, che lo rende disponibile gratuitamente per tutti e tutte. I Zoo, Pascal de Duve. E la recensione finisce qui, però se c'è qualcuno che non teme spoiler e vuole ascoltare un ulteriore approfondimento che a mio avviso rende ancora meglio l'importanza di una lettura del genere, l'aggiungo adesso. Ho scritto I Zoo nel momento in cui ho scoperto di essere sieropositivo. Con queste parole Pascal de Duve nel 1992 in un viaggio in una bananiera, in un cargo che attraversa l'Oceano Atlantico, racconta il suo rapporto con la malattia, la sieropositività e poi la malattia, che lo porterà alla morte nel 1993 a soli 29 anni. Non leggere più niente, chiuditi a riccio, ma se proprio non ce la fai, ti consiglio di leggere Undrowned, lezioni di femminismo nero dai mammiferi marini, di Alexis Pauline Gams, edito da Timeo nel 2023. È un libro che ci accompagna un po' nella magia dei mammiferi marini e a partire da quello traccia le interconnessioni tra le specie in una chiave transfemminista, ricordandoci come siamo tutti esseri strettamente collegati, resistenti, resilienti e che quindi solo insieme, abbandonando ogni confine tra generi, tra specie, tra stati, potremmo salvarci, perché nessuna si salva da solo se non ci salviamo tutti insieme. Chiuditi a riccio, non leggere più niente, però se non sai che cosa fare quest'estate, consiglio due libri molto interessanti. Il primo si intitola Il buio a luci accese di David Hayen, uscito per Safara Editore, tradotto da Riccardo Duranti, ed è un libro di sguincio inteso anche proprio come stampa, cioè se lo vedete in versione cartacea vedrete che è tagliato di sguincio una parte, e anche la stampa è così. E è un libro di racconti che vi disturbano, a partire dal primo, in cui c'è il racconto della caduta infinita di un uomo da un palazzo, ed è, sembra anche una favola, e inizia così, dice: ne è passato di tempo da quando sono saltato giù dal cornicione. E poi il racconto continua e è molto interessante. Sono 20 racconti che non hanno un tema in comune. Ognuno è scioccante a modo suo ed ha una ricerca stilistica molto interessante, inedita, e insomma è interessante anche vedere come l'autore compone le parole all'interno di una singola frase. Aidan, che è l'autore, appunto, ha la capacità di confondere la tragedia e il sarcasmo, come ad esempio in un racconto che si intitola Ultima chiamata per gli odiati, in cui c'è il racconto di un uomo che viene licenziato dalla sua azienda, che ne comprende però il valore solo dopo, e quindi viene reintegrato ma da remoto, finendo per svolgere lo stesso lavoro però con molte meno garanzie. E però, nonostante tutto, il personaggio principale, nonostante questo licenziamento, la lontananza dell'ufficio gli sembra più interessante. Quindi, chi è appassionato di autori come Bartelmy o Saunders, e può sognare con un po' di racconti, questo è un libro per l'estate. Un altro libro per l'estate è Stranieri a noi stessi, uscito per i Corvi di Iperborea, tradotto molto bene da Claudia Durastanti, uscito per Rachel Aviv, che è una giornalista statunitense, e racconta il rapporto tra malattia e identità in un momento in cui, soprattutto sui social network, si esaspera la propria autonarrazione in base a qualsiasi difetto, soprattutto quelli magari un po' meno importanti. Questo libro, secondo me, da leggere soprattutto in un momento in cui chi gode di privilegi e di potere, come per esempio grandi attori che per 2 ore ve li ritrovate sui social a parlare in un podcast della propria forma, seppur lieve, di Asperger, e dal suo punto di privilegio impartisce lezioni di vita basate sulla semplificazione uscite, usciamo tutti allo scoperto, ecco. Straniera a noi stessi parla della storia personale dell'autrice che a 6 anni viene ricoverata con una diagnosi di anoressia, e da quel momento parte il racconto di 5 vite parallele, 5 persone la cui diagnosi psichiatrica finisce per impossessarsi della loro identità. C'è una certa Bapu che viene venerata come una santa negli ashram dell'India e che è bisognosa però di cure mentali per la sua famiglia. C'è Naomi che è incarcerata dopo un episodio di psicosi ed è alla ricerca disperata del perdono dei propri figli. C'è Ray che è un medico caduto in disgrazia e che ha dedicato la vita a vendicarsi dei suoi analisti. C'è Laura che è una studentessa di Harvard che dopo anni di terapie e di psicofarmaci diversi non sa più chi è se non prende medicine. E poi c'è Ava che a ogni nuovo diario si impegna a trovare la forza per superare l'anoressia, ma si sentirà fino alla fine straniera appunto a se stessa. Ecco, questi 2 libri secondo me sono 2 bei libri da leggere quest'estate. David Hayen, Il buio a luce accese, Safarà editore, e poi Straniera e noi stessi, uscito per i Corvi di Iperborea, tradotto da Claudia Durastanti, casa editrice appunto Iperborea.